Davanti a voi, intrappolato da strati di residui marini e incrostazioni antiche, giace un vecchio marinaio. È come se il tempo l'avesse dimenticato.